Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Franco Piantini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, c'è anche Alessandro Marcotulli oggi in redazione, c'è Giovanni Capuano, mio compagno della domenica. Ciao Carlo. Ciao, come stai? Benissimo, parte la pioggia. Parte la pioggia che non finisce mai. Come lo vedi Balotelli? Io Balotelli lo vedo seduto in fondo alla panchina, credo che Conte l'abbia chiamato davvero giusto per dargli un'occhiata. Lasciamo stare tutti i discorsi di sponsor o cose varie che sono... Tanto oggi ho visto le scarpe che metterà. Sì, ma quelle, tra l'altro, c'è questo giallo, cioè quelle scarpe lui e la Puma le hanno lanciate sabato, perché le ha già indossate nel corso della Quindi partita con il Chelsea. Stai dicendo? Secondo me no, perché poi bisognerebbe anche dire le cose come stanno, e cioè che in realtà la Puma da due mesi ciclicamente ha ogni pausa per le nazionali fa una campagna pubblicitaria di Balotelli legata all'Italia, ai suoi brand, e quindi secondo me semplicemente le avrebbe lanciate lo stesso anche senza convocazione. Oggi si legge di nuovo della proposta di Conte a Tavecchio: facciamo una limitazione dei giocatori italiani per giocatori stranieri, allora, quindi inseriamone 10 per ogni rosa. Secondo me il tema è un altro, Carlo, ed è questo. Io sono andato a fare un po' di ricerca d'archivio e ho trovato che tutto questo discorso sulle percentuali di italiani che giocano l'aveva fatto anche Prandelli più di una volta, ma soprattutto a luglio, quando a Istanbul aveva spiegato perché il nostro calcio era in crisi, eccetera. Allora, io ti dico la verità, io mi sono scocciato di allenatori che fanno discussioni sui massimi sistemi e sulla crisi del calcio italiana, che esiste, si legge sui giornali, ci sono fior di inchieste che spiegano dove si può ripartire. Conte prende 4 milioni e mezzo per due anni, quindi 9 milioni e passa per qualificarci agli europei. Pensi a essere un valore aggiunto per quello che è pagato, è un top manager, le analisi le lascia a quegli altri. Io sono d'accordo che venga fatto un regolamento modello UEFA. La UEFA in Champions League dice che ci sono 8 che devono essere provenienti dal tuo bacino di vivai nazionali. Ecco, io sono d'accordo, però Conte, pensi a far giocare bene questa nazionale? Perché sinceramente il materiale ce l'ha già. Ha detto che rispetto ai suoi predecessori il materiale umano a disposizione, sì, ma allora il personale, qual è il valore aggiunto? Allora potevamo prendere chiunque sulla panchina della nazionale. Anche Lippi, che ha vinto il mondiale, insomma, aveva a disposizione un maggior numero di giocatori italiani. Oh, sto facendo l'avvocato del diavolo, allora, perché io sono contrario al cartello. A Conte si sta chiedendo, lo dice il suo contratto, di qualificarci per gli europei, di guadagnare qualche posizione nel ranking, e poi avrà un bonus se farà almeno come Prandelli, che è arrivato in finale. Bisogna arrivare nelle prime due, magari anche terzo di un girone, con Malta, Azerbaijan, Bulgaria, Croazia, Norvegia. No, io dico, si concentri su questo. Lui è stato preso perché è stato identificato come il migliore in questo momento, e allora abbiamo bisogno che lui ci dia un valore aggiunto. Altrimenti, se noi avevamo Cabrini, Antonioni, Tardelli, quella gente lì, bastava anche un tecnico federale, no? Allora, invece di farci l'analisi sui mali del calcio italiano, che per carità può anche essere giusta, ma sta tanto anche di mani avanti, Conte faccia quello per cui è stato pagato. Lui è stato pagato per essere un valore aggiunto. Gli allenatori della nazionale si sono sempre lamentati dello scarso numero di giocatori italiani a disposizione. L'aveva fatto anche Lippi, che pure ne aveva di più rispetto a Conte. L'abbiamo letto nei giorni scorsi di questa chiacchierata tra Conte ad agosto aveva detto che la nazionale era un premio da conquistare, non qualcosa che lui avrebbe concesso alla prima apparizione, al primo gol. Ha detto non basteranno due o tre minuti. Conte ha già convocato con questo giro qui, e aspettando le convocazioni per l'Albania, ha già convocato 38 giocatori in due mesi di lavoro. Berzot in 11 anni ne aveva convocati 48. Allora, a me va bene tutto, l'importante è che ci sia coerenza fra quello che tu dici e quello che tu sei e quello che poi tu fai. Secondo te non dovrebbe chiamare giocatori, deve pur vederli, conoscerli, valutarli. Il problema non è mio, l'ha detto lui. Non l'ho detto io. Ad agosto il suo manifesto è stato: la nazionale non sarà un premio, ma sarà qualcosa che andrà sudata e conquistata. Non basteranno due o tre minuti Serie A, il primo gol, qualcosa. È un discorso corretto. Vabbè, ma sta facendo qualcosa di diverso. Ma non deve chiamare Balotelli perché non ha ancora segnato. Allora, Immobile, due gol in Bundesliga. Zaza, due gol in Serie A. Sto andando a memoria. Destro non trova spazio nella Roma. Anche lui deve raschiare il fondo del barile, poveretto. 800 24 00 24, voi come la pensate? Poi io sono, detto questo, io sono contrario a questa proposta, alla garantire un posto di lavoro a giovani giocatori italiani. Sono contrario, perché abbiamo visto anche in altri sport, pure in Italia, questa forma di protezionismo non ha fatto altro che aumentare il valore dei contratti dei giocatori italiani, che erano in questo modo protetti e che dovevano essere inseriti in rosa e che dovevi prendere. Erano pochi, costavano di più e spesso non venivano utilizzati. Quindi non basta dire servono 10 giocatori eleggibili in una rosa da 25 eccetera, se poi non li fai giocare, se poi li metti in tribune, se poi questi guadagnano un sacco di soldi, è un sistema antieconomico che non porta da nessuna parte. E poi, detto questo, io continuo a pensare che sia il calcio dei club che l'acqua che muove il mulino. Dunque, anche i presidenti dei club è giusto che facciano i loro conti e i loro interessi. Assolutamente, detto che però la Formula 25-8 del vivaio con le famose liste in Champions qualche risultato l'ha ottenuto. Si può studiare qualcosa, non è detto che sia necessariamente né la ricetta giusta né la ricetta sbagliata. Però abbiamo lì Tavecchio, abbiamo lì tutti gli altri. Io, da allenatore della nazionale, prima dell'impegno più importante del girone contro la Croazia, mi aspetto che faccia l'allenatore della nazionale. Solo questo. 800240024. Tra poco, subito dopo il traffico, arriva Pardo, arrivano anche altri ospiti, aspettiamo voi. Non devo mandare nessun messaggio a niente, nessuno. Chi mi conosce sa benissimo il mio modo di operare, il mio modo di essere. Quindi io non regalo niente a nessuno. E ho detto che nel momento in cui meriteranno di rimanere nel giro della nazionale, di vestire la maglia azzurra, resteranno. Altrimenti non è detto che chi c'è oggi ci sia domani e chi non c'è oggi non ci sia domani. Quest'anno, ripeto, mi comporterò come mi sono sempre comportato, quindi a me non ha regalato niente nessuno nella vita, ho sempre faticato per arrivare dove sono arrivato e quindi è una cosa che mi porto dietro. Tutti convocati. Vedi che c'è Gabriele che scrive un sms, caro Giovanni Capuano, 800240024, per sentire invece la vostra voce, messaggi 349-238-6666. I vostri giocatori li conosco a memoria, ma lo do pochissimo il numero dei messaggi. Beh, Gabriele scrive: i giocatori italiani non sono pochi, sono scarsi e giocano giustamente nelle serie inferiori o vanno in panchina. Ciao Pierluigi Pardo. No, dobbiamo chiamare subito quella persona, Sì, quella attaccante. Adesso chiamiamo l'attaccante. Subito pianta, che poi c'è l'allenamento. Sì, che non è italiano. Non è italiano. Non è italiano, no, è argentino. Però era forte. Come fosse italiano. Però era forte. Beh, secondo me qualche squadra di Serie A potrebbe ancora... Potrebbe ancora dire la sua. Ma c'è, arriva tra due minuti. Ok, perfetto. No, stavamo parlando, sai, quota azzurra o quota tricolore, queste cose che tornano come un refrain ogni volta che gioca la nazionale, Pier. Sì, tornano come un refrain e servono in qualche modo ad alleviare la noia di queste giornate qui, che insomma è mortale. È terrificante, è mortale, perché insomma l'adrenalina che la nazionale riesce a riprodurre durante l'anno è pochissima. Ma tu pensa se Conte non ci convocava Balotelli, che grazie, no, la settimana passavamo. Io lo ringrazio a nome di tutto, insomma, di tutta la categoria, però è chiaro che insomma sono palliativi, ecco. Ma tu qual è il tuo pensiero? Ripetiamo il tuo pensiero su questo argomento. Io sono contrario alla quota azzurra. Ma allora io ti dico su in che intendi? No, al fatto di riservare, mettiamo 10 posti in rosa per giocatori eleggibili per la nazionale. Sì, ma assolutamente. Assolutamente, insomma è chiaro che le esigenze della nazionale e dei club sono completamente diverse ed è quasi inconciliabile mettere insieme, è un po' come il discorso degli infortuni e dei risarcimenti, insomma sono o dei tempi a disposizione dei commissari tecnici durante la stagione, cioè per quanto si possa essere brave persone, educate e provare ad avere un buon rapporto, però le società avranno sempre delle esigenze profondamente diverse dalle nazionali, quindi no, sono d'accordo con te, gioca chi è più forte, su questo non ci sono particolari dubbi, poi è ovvio che chi si occupa per lavoro e per passione del mondo azzurro possa fare di tutto per poter favorire per poter proteggere i nostri talenti, ma insomma, mi sembra un'impresa abbastanza disperata. Ma guarda, ad esempio la pallacanestro era stato fatto questo, cioè erano stati riservati tre posti nella rosa dei 12 di ogni squadra ai giocatori italiani. Questo ha portato a enormi esborsi per i club, non ha prodotto praticamente nulla per la nazionale. I giocatori italiani protetti guadagnavano molto di più rispetto agli stranieri, pur essendo magari di valore inferiore, mentre ora cominciamo a vedere, ad esempio, nella pallacanestro squadre come Reggio Emilia, prima in classifica, che ha quattro italiani, tra l'altro giovanissimi, in quintetto base. Ecco l'attaccante che stavi aspettando, lo saluti tu, Pier? Sì, buonasera, anzi buongiorno, signor Hernan Crespo, come va? Ciao Pier, come va? Sto bene? Sto bene. Chi è più forte, Crespo o Tevez? Come? Chi è più forte? Crespo o Tevez? Crespo tutta la vita. Ma ecco, no, infatti io ero certo di questo, però volevo una risposta dalla fonte autentica. Senti, oggi una volta Crespo, adesso tutta la vita Tevez. Adesso Tevez. È chiaro. Senti, ci parli, avete presentato una cosa bella oggi, o sbaglio? Molto bella, una bella iniziativa, che è il Jump in Parma, che è un evento equestre internazionale, molto molto molto bello, che sarà durante 4 giorni, e dove il venerdì faremo una partita per beneficenza per gli amici del SIC, dove giocheranno gli ex giocatori con i cavalieri. Quindi uniamo i due sport, sia l'equitazione che il calcio, per beneficenza. Quindi ci divertiamo, stiamo insieme e facciamo beneficenza, quindi invitando a tutti, con la partecipazione dei giocatori come Javier Zanetti, Diego Fuser, Paolo Vanoli, Ivan Cordova, Dino Baggio, e giocheremo contro i medagliati olimpici europei, mondiale, internazionale, italiani, e quindi sarà molto molto molto divertente. Quando succede tutto questo, ricordiamolo? Per gli amici del SIC, per la fondazione Amici del SIC, dove ci lega anche un'amicizia con Paolo Cimoncelli. Quando, Hernan? Il venerdì 21, alle 21 ore, nel Palacassa di Parma, nell'ente fiere di Parma, quindi vicino all'autostrada, perfetto da prendere la A1, uscire, e si trova subito fiere di Parma, lì il venerdì 21 alle 21. Stiamo facendo indicazioni stradali da Hernan Crespo in versione navigatore. Senti Hernan, ti chiedo una cosa io, stavamo parlando di italiani e stranieri, sai, questo discorso che continua a tornare, ci sono pochi giocatori italiani e Conte in difficoltà. Tu hai passato una vita da straniero in Italia, da superstar. Tu credi che adesso gli stranieri siano troppi? È questo un problema secondo te? Beh, io penso che come tutte le cose ci vuole lo equilibrio, non gli eccessi. Io vengo dalla generazione dei 3 stranieri, e quindi arrivare in Italia era veramente complicato e era anche riduttivo, perché dare la possibilità soltanto di partecipare all'epoca al più bel campionato del mondo era veramente riduttivo, dare la possibilità soltanto a 3 stranieri. Le cose sono cambiate, il problema è che siamo andati oltre, e questo è il problema. Il problema è che purtroppo ci vogliono delle regole che non ci permettano di andare oltre, perché pensare che nel campionato italiano ci sia più del 50%, non so, 54% di stranieri in Italia mi sembra un po' esagerato. Quindi le cose stanno come devono andare, probabilmente i dirigenti sapranno cosa devono fare, però sinceramente mi dispiace molto, molto, perché in teoria l'estraniero che arriva è quello che ha fatto la differenza nel suo campionato e potrebbe fare la differenza in Italia. E scommettere su un straniero, preferirei anche scommettere anche su un italiano, però lì subentrano costi, subentrano mentalità, perché anche è da capire che anche il giocatore italiano quanta voglia di andare all'estero, questo non lo so quanto ha, cosa che probabilmente l'estraniero sì. Quindi per una società di calcio prendere un ragazzo straniero e farlo venire, sai che se non funziona probabilmente ha un mercato diverso. E il giocatore italiano arriva alla squadra italiana e se non va bene mette le radici, cioè fa fatica ad andare via. Sì. Quindi, e questo probabilmente per un'azienda calcio diventa complicato, quindi è un po' la colpa, fra virgolette, un po' di tutti. Però a questo punto dobbiamo darci una mossa, perché non va bene così, ecco. Club fanno un po' trading ultimamente, visto che siamo nella radio del Sole 24 ore, spesso con gli stranieri, soprattutto con i ragazzi, e secondo me l'aspetto più preoccupante è che ce n'è una maggioranza anche nei vivai, non soltanto nelle prime squadre delle società italiane. È vero, Hernan, però, che gli italiani, i bambini italiani giocano sempre meno a pallone, e anche questo è un problema? Cioè diventa anche, si sta restringendo anche la base, ma anche quella degli oratori che gioca per strada, cioè quella dove poi voi andate a pescare. È che la realtà dei fatti è che ci sono diminuite le ore di giocare a calcio. Una volta quelle della mia generazione giocavamo con la carta, giocavamo con una pallina da tennis, giocavamo con il pallone gonfio, sgonfio, e quindi questo, anche senza volerlo, ti creava coordinazione nei movimenti, e passavi delle ore e ore a giocare dove inconsciamente lavoravi per il futuro. Quindi tu, quando oggi devi lavorare su un ragazzo sulla tecnica, e inconsciamente da piccolo ha passato delle ore facendo coordinazione, perché il rimbalzo una palla sgonfia con rispetto a una dei tennis è diverso, e quindi tu dovevi mettere a posto il tuo corpo in modo tale di colpirla bene. Quindi inconsciamente facevi lavoro di coordinazione e di tecnica, e queste ore si sono ridotte, perché oggi i ragazzi hanno più opzioni di noi, di quelle che avevamo noi. Magari quelle 4-5 ore che noi passavamo a giocare a pallone, loro la suddividono in due ore, le altre due ore vanno a giocare a PlayStation, dopo l'alpha dell'internet, e quindi dopo, quando tu ti trovi a lavorare con loro, devi andare a modificare il modo di una volta che tu lavoravi, e adattare ai tempi che corrono, aggiungendo molto più lavoro di coordinazione per dopo aggiustare la tecnica, tutto via dicendo. Ma questo ci vuole dei docenti adatti, le scienze motorie, e questi sono soldi. E questi sono soldi. Cioè, tu devi andare a mettere i docenti giusti in modo tale di andare a sostituire, a andare a colmare questo che una volta veniva inconsciamente fatto. Chi vince il campionato? Che bella domanda. Sono due. Sono due le opzioni, secondo me. Non c'è il Napoli? No. Magari ci sia una terza per il bene del campionato. Magari ci sia una terza, ma anche una quarta, una quinta, speriamo. Già almeno non c'è una mazza campionato come è successo l'anno scorso con la Juve, quindi uno può aspettare anche che magari la Juve in questo caso possa perdere a Genova, quindi si avvicinano tutti. Magari il Napoli non partendo alla grandissima, in allenando una serie di risultati, si porta lì vicino, quindi è bello vedere un campionato così. Certo che se arriva una squadra e ti fa 102 punti veramente diventa complicato, ma se qualcuna il campione lo fa con 80, allora ci avremo un campionato vincente. Grazie, Hernan. Grazie, un abbraccio. Una cosa finale, Hernan. Vai. Non ti chiedo, su Parma c'è qualcosa che vuoi dire? Sul tuo futuro in assoluto, anche fuori da Parma, cioè visto che tu fai benissimo il commentatore, fai benissimo l'allenatore, che vuoi fare da grande della vita? Su Parma tema libero, perché ovviamente sono ore calde, leggiamo le cronache, quindi non ti voglio mettere in mezzo, però se ti va di dire qualcosa ovviamente puoi farlo. E sul tuo futuro volevo capire, insomma, allenatore. Beh, certo, no, il futuro come allenatore, ci lavoro per quello, ho studiato per quello, ci sto lavorando ancora per questo. Chiaramente non vorrei, anche se mi piace stare insieme ai ragazzi, non vorrei stare una vita nel settore giovanile, quindi sto lavorando per arrivare al calcio che conta. Certo. Grazie, Erna. Grazie. Buon lavoro. Ciao. Tutti convocati. Da un grande ex attaccante come Crespo a un presidente attualmente in carica di una squadra che sta viaggiando velocissima. Enrico Preziosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di aver aderito alla nostra convocazione. Pardo, vuoi cominciare tu con le domande? Buongiorno presidente, come va? Prima di tutto. Bene, abbastanza bene. Che mi racconta un po' i suoi sentimenti, perché insomma mescolare cose molto diverse delle volte è complicato e anche un po' blasfemo. Sappiamo che Genova ha vissuto e vive ancora problemi enormi, infinitamente grandi, e però queste due squadre fanno da contrasto, da contraltare. Mi racconta un po' le sue emozioni, che immagino forti, di questi giorni, in un senso e nell'altro? Beh, certo, per quanto riguarda l'aspetto umanitario e di quello che sta succedendo in Genova, è evidente che è qualcosa di completamente diverso, che insomma poi ti fa avere meno voglia di parlare di calcio, no? Perché poi ci sono vite umane che non ci sono, che sono state spezzate da questi eventi, e quindi e non è bello parlare di volte di una città che ha già delle difficoltà particolari, anche sotto l'aspetto economico, sociale, insomma, ha un sacco di problemi, è una città che avrebbe bisogno di così di rilanciarsi anche attraverso investimenti e soprattutto anche quelli strutturali, però questa è una cosa che insomma lascia non sorridere quelli che sono coinvolti nella città di Genova, ma penso tutta Italia e forse anche fuori dall'Italia. A maggior ragione provando a dare un raggio di sole in questi giorni. Sì, diciamo che almeno il calcio a Genova, poi in concomitanza con i risultati di tutte e due le società, è una nota lieta, no? È qualcosa che insomma dà un minimo di sorriso laddove ci sono tutte le persone interessate, i cittadini interessati al calcio, sono tantissimi a Genova, quindi questo mi conforta. Poi per quanto riguarda la mia sensazione sulla città, cioè sul momento attuale, è quella di serenità, non è né di esaltazione, non penso assolutamente a obiettivi particolari se non quelli di continuare ad avere un rendimento costante e non soffrire più come le ultime tre anni. Tutto qua. Ma la nazionale martedì con l'Albania è una bella cosa, o c'è anche chi aveva avuto da ridire sul fatto di portare una partita comunque di scarso appeal, comunque chiedere ai genovesi un tributo per vedere la nazionale? Diciamo che può essere una contraddizione, però forse è il momento anche per focalizzare l'attenzione. Quella partita era destinata a un'altra città, che era Parma. Il fatto che l'abbiano spostata a Genova, sì, seppur vero che poi gli stessi genovani contribuiranno, ma è anche vero che ci sarà molto più attenzione sulla città di Genova, e quindi questo fa piacere, perché è un gesto che vuole ricordare e vuole richiamare attenzione a certe situazioni che non sono più tollerabili in un paese civile. Presidente, come la pensa sul capitolo troppi stranieri, pochi giocatori italiani? Ogni volta che gioca la nazionale, soprattutto di questi tempi, ritorna la polemica. Lei, da presidente di club, ritiene opportuno o utile garantire un posto di lavoro a un certo numero, diciamo 10 giocatori italiani per ogni rosa di Serie A? Ma in un mondo globale penso che mettere barriere, paletti, è una cosa assurda. O viviamo in un mondo globale, oppure gli stranieri, che cos'è? Può essere anche uno spagnolo. Sono straniero. D'accordo. E allora se siamo una comunità europea, che viaggiamo da tutte le parti tranquillamente, senza neanche mostrare la carta d'identità, non capisco perché si parli di stranieri. E se poi andiamo oltre oceano è un altro discorso, e potremo approfondirlo meglio. Però io credo che tutti i giocatori che hanno qualità e che possono aumentare la qualità del gioco, certo, il problema è che quando arrivano stranieri che sono inferiori a quelli che sono gli attuali nostri giocatori, il calcio non si arricchisce ma si impoverisce. Presidente, lei ha fatto in questi anni cose eccezionali, soprattutto dal punto di vista dello scout, cioè per il Genoa, o quantomeno per gli osservatori del Genoa, sono passati veramente i migliori. Ha un po' esagerato forse certe volte nella frenesia del comprare e vendere, nel senso che poi glielo chiedo perché no, insomma, al Genoa sono passati tutti, ma è così, perché poi devo dire che noi abbiamo avuto una storia un po' particolare, quindi abbiamo comprato la società in Serie C, poi in Serie B, abbiamo vinto il campionato, poi sono ritornato in Serie C, ed è stato tutto un continuo cambiare giocatori, perché le categorie erano sempre diverse fino a quando siamo approdati in Serie A. È anche vero che noi se avessimo mantenuto tutti i giocatori importanti che sono arrivati a Genova, probabilmente avremmo vinto anche noi lo scudetto, certo. E sarebbe stata la felicità di tutti i genovani. Ma la verità, come si dice, la verità vera è che non so, potevamo permettere ingaggi, anzi, proprio per aver avuto comunque una poca attenzione a quel tipo di investimenti, poi abbiamo rischiato di avere problemi economici seri. Per cui noi dobbiamo adattarci a quello che è la nostra dimensione, purtroppo, questo non fa piacere ai genovani, però questa è la realtà nostra, e dobbiamo cercare nella nostra dimensione di fare il meglio, questo è quello che è la nostra missione. E ha ragione lei quando mi dice che abbiamo esagerato, ma è stata anche un'esagerazione per un tourbillon che si è reso quasi indispensabile, perché poi comunque giocatori importanti o paghi 4 milioni, 5 milioni di ingaggio, oppure li perdi. Quando parlo il caso di Milito, per esempio, quando farne uno, Thiago Motta o qualcun altro, pensare che Genova possa pagare 5 milioni di stipendio è veramente pazzia. E quindi questo è stato un po' una morte. E poi ci sono anche delle esigenze a volte che non, ma credo che questa cosa l'abbiamo un po' ridimensionata, perché avevamo 100 passo giocatori, oggi veramente siamo una società molto equilibrata che sta pensando ai bilanci, sta pensando a una programmazione diversa, e credo che i primi risultati si intravedono. Quindi Bertolacci la prossima estate torna a Roma? Ma io non credo proprio questo. No, ho letto oggi sui giornali. Ogni volta che si chiama un giocatore che è a metà, di sicuro o torna a Roma o resta a Genova, perché le comproprietà non sono più ammesse l'anno prossimo, e quindi bisogna definirle. È l'ultimo anno delle comproprietà per quelle che erano vecchie. Per cui di sicuro non resta, noi cercheremo di difendere la nostra metà, poi con la Roma abbiamo un dialogo aperto e spero che questo ci permetta di trovare la soluzione migliore sia per il giocatore che per il giocatore. Senti, Pierluigi Pardo, salutiamo il presidente Preziosi ricordando quello che ha detto a Tiki Taka l'altra sera Zamparini sul di rimpettaio di Preziosi. Cos'è che ha detto che non mi ricordo più? Non me lo ricordo, Pierluigi. Ha detto che non capisce molto di calcio, ma ha un gran culo. Ecco, sì. però insomma il giudizio mi sembra benevolo e pieno di simpatia. No, questo volevo chiedere, innanzitutto chi è più forte a carte, perché ci fu quella famosa discussione su quella partita estiva, e poi che rapporto c'è tra di voi? Ma noi ci sentiamo raramente, devo dire la verità, perché non è gradita a Genova la comunanza tra i due presidenti, e quindi meno ci si frequenta meglio è, perché ci sono sensibilità particolari a Genova che bisogna rispettare, per cui ognuno fa il suo percorso. Vi incontrate di nascosto? Però, no, ma quando ci incontriamo in Lega siamo ancora più che cordiali, anzi. Assolutamente un rapporto, anzi mi ha chiesto di fare un pupazzetto e adesso vediamo di studiare un pupazzetto che lo rappresenti. Che pupazzetto? Il Baciccia? Sarebbe il Viveretta, facciamo. Ah, Viveretta, il Ferrerino. Giochi Preziosi che fa il Viveretta. Sarebbe il nostro. Lo facciamo in fretta, però devo dire che al di là della fortuna, poi nel calcio non mi creda, non c'è uno scudetto non accompagnato da una fortuna o una qualificazione a cui ad un momento fortunato, perché poi la fortuna è comunque un elemento importante nel gioco del calcio, basta una traversa per vanificare tutto un campionato. Quindi Ferrero a culo, ma è giusto così. È giusto perché ha anche una buona squadra, e questo è importante. Grazie Presidente. Buona giornata. Grazie Enrico Preziosi. Traffico. Ferrero è spassoso, è veramente spassoso nel calcio, io dico che è un gran culo, perché è uno che arriva nel calcio, che non capisce niente di calcio, e si trova un grande allenatore come Jarovic e una squadra che gli hanno ridato i garroni che non ne potevano più, che rischiavano sempre di retrocedere, lui si trova lì terzo o quarto. Io penso che gli venga un delirio di onnipotenza e pensa di essere il dio del calcio, questo è l'unico grave pericolo che corre. Tutti convocati. Allora io convoco Rosario da Roma, scusandomi per l'attesa lì da un po'. Buongiorno. È lì da un po' ma non si sente. È diventato. Rosario, che succede? Si è scaricato il telefono. Rosario. Rosario, pronto Rosario, siamo qui no Rosario. No way. Provincia di Imperia, Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti alla trasmissione come al solito. Grazie, com'è il tempo? Come? Tempo, meteo. Ma adesso c'è nuvola, ma la temperatura è tiepida, quindi si sta abbastanza bene. Io volevo intervenire un attimino sul discorso degli italiani, che il vivaio è basso oramai. Non si può mettere nelle seconde categorie la B e la C invece lì dei contingenti per quanto riguarda i giocatori italiani? Sì, secondo me potrebbe essere una, cioè, potrebbe una, essere idea, una base per creare poi un vivaio per sì, diciamo così, le squadre ma maggiori. Anche questo è un discorso annoso, no? Quello della riforma dei campionati. Quante volte abbiamo sentito queste parole negli ultimi 20 anni? Sì, a me interesserebbe più, torniamo a quest'estate al famoso Opti Poba di Tavecchio, che in realtà nascondeva un ragionamento sul modello inglese. Ecco, ad esempio, quello secondo me potrebbe essere una delle strade da battere. Quello del pedigree dei giocatori. Quello del pedigree dei giocatori, per dirla alla Tavecchio. Pedigree. Cioè, tu puoi venire e giocare in Serie A se hai almeno il 50% di partecipazioni con la tua nazionale maggiore, e la tua nazionale maggiore sta nelle prime 30, 40, 50 del ranking FIFA. Cioè, fare una selezione per qualità più che una selezione numerica è sempre comunque una cosa che finirebbe per lambire, non dico il razzismo, ma beh, però in Inghilterra lo fanno. Se vogliamo dare dei razzisti agli inglesi, non lo so, mi sembra tema delicato, Pier. Cioè, in Inghilterra esiste questo sistema e secondo me in qualche modo li ha preservati da chi fa, e io ripeto, da chi usa il calcio per fare trade, cioè però compra poco e vende tanto. Comunque la Premier League è comunque piena di stranieri, gli allenatori si lamentano del fatto che ci sono pochi inglesi, la nazionale va molto bene. E difatti anche loro cambieranno le regole, da quello che ho letto le renderanno più stringenti. Io ci credo poco, penso che non è come il discorso delle quote rosa in Parlamento, che per carità sono... ci mancherebbe altro che non si devono rappresentare tutte le istanze delle donne, però l'importante è che queste donne poi siano brave, ovviamente, no? E mi piace l'idea che sarebbe bello in un mondo ideale che se lo conquistassero questo seggio, non che ci debba essere per forza il recinto, almeno questa è la mia opinione. Mi sembra un po' lo stesso discorso. Poi, la discriminazione tra quelli bravi e quelli scarsi. Sì, il problema secondo me è un fatto culturale del calcio italiano, che siamo il calcio in assoluto più isterico, anche se non siamo più il calcio migliore del mondo, siamo il calcio con la maggiore pressione al mondo, e da mille punti di vista, e questo secondo me poi incide su quello che poi alla fine è il livello di pazienza, e quindi il tempo che viene dato ai giocatori, il tempo che viene dato ai giovani, e il risultato finale è quello lì, insomma. Però qualcosa si deve fare sicuramente, l'idea delle serie minori è certamente molto interessante, in assoluto tutto ciò che è protezionismo mi piace poco. Comunque Conte ha chiamato in 2 mesi e mezzo di lavoro 38 giocatori, con i rientri di Balotelli e Cerci, le chiamate di Bertolacci, Moretti e Soriano, è a 38. Per darti un'idea, Vicini ne aveva chiamati in un quadriennio 45, Zoff ne aveva chiamati 50, Berzot 58 in 11 anni. Ora è vero che i tempi sono cambiati, però è anche vero che gli stessi CT, al di là di quello che poi possono dire, delle promesse, dei manifesti che fanno, hanno un approccio diverso, e in questo Conte non segna nessun elemento di discontinuità rispetto a Prandelli e a chi lo ha preceduto, anche se ad agosto, lo ricordiamo, aveva detto qualcosa di profondamente diverso. Aveva detto qualcosa di diverso, ma non ci trovo niente di sbagliato, nel senso che vuole vederli, conoscerli, parlarci, eccetera, eccetera. Michele Pisa, buongiorno. Ma io mi volevo riallacciare a quello che è stato detto fino adesso. Io casualmente domenica ero al lavoro e ho avuto la possibilità di guardare una partita delle giovanili della primavera, se non sbaglio, era Juventus Bologna, o Bologna Juventus, che tra l'altro poi è finita per il Bologna 1-0. E devo dire che cioè, veramente una pena, cioè degli errori, ma neanche da scuola di calcio. Mio nipote gioca alla scuola di calcio da un anno e fanno delle cose impressionanti, cioè vedi questi ragazzi che sono altissimi però disarticolati a livello tecnico, proprio zero. E poi è chiaro che quando arriva in Serie A oppure più in su hanno dei limiti veramente tecnici, ma perché sta no, base, trovo che una grossa pecca sia l'investimento negli istruttori, questo è vero, sì. Sappiamo come si spenda poco per i settori giovanili. D'altra parte, io fossi un presidente di calcio, non avrei nessuna voglia di buttare molto denaro lì quando so che ci sono delle regole, e quelle si vanno cambiate, che mi impongono di contrattualizzare i giocatori quando hanno 16 anni, se no li perdo, poi li perdo di nuovo a 20 o 21, non ricordo. Insomma, ci sono quelle sì andrebbero cambiate, dicevi Pier? No, che secondo me adesso noi stiamo parlando giustamente di talento, ma se avete letto l'intervista a Bogarelli oggi sulla Gazzetta, secondo me il motivo per il quale il calcio italiano fatica in assoluto è essenzialmente quello, perché oggi siamo in una forma di mercato globale talmente grande, talmente importante, che con tutto il rispetto per l'influenza che può avere il centro tecnico di Coverciano o i centri tecnici degli altri paesi, le scuole calcistiche che esistono, è tutto estremamente globale, è tutto estremamente mescolato, e quindi il nostro calcio deve recuperare un appeal, e lo recupera purtroppo tristemente attraverso il reddito che riesce a produrre. Si è rovesciata la piramide, non è il calcio di 20 anni fa, di 30 anni fa, dove se tutti i giocatori di una scuola calcistica dalla base erano nettamente più forti degli altri, bastava questo per costruire dei grandi campionati e delle grandi squadre. Oggi è the other way around, oggi il meccanismo purtroppo è dall'altra parte, il mercato è globale, ci guardano da tutto il mondo, ma come guardano noi? Guardano il Real Madrid, e poi scelgono di guardare quello che gli piace di più, noi dobbiamo fermarci per stiamo qua tutti. Quote e pronostici. Questa sera vanno in campo parecchie nazionali, per alcune amichevoli anche parecchio interessanti. Alle 20:30 c'è la sfida tra Olanda e Messico, la vendetta tricolore come è stata rinominata in Messico questa partita. Vediamo dunque le quote SNAI per questa gara. L'1, la vittoria dell'Olanda è quotata 1,75, l'X è a 3,45, il successo messicano, il 2, è quotato 4,25, gol per questa partita quotato 1,90, no gol quotato 1,80. Alle 20:45 in campo invece Argentina contro Croazia, gara da seguire con grande attenzione sia per il ritorno di Carlos Tevez con l'Albi Celeste, sia perché la Croazia sarà avversaria dell'Italia nel cammino che porta a Euro 2016 nel match di domenica. L'1, la vittoria dell'Argentina, che è strafavorita per questa partita, è quotata 1,20, l'X è a 5,70, il 2 invece con la vittoria della Croazia è quotato 12,50, gol a 2,50, no gol a 1,47. Alle 20:45 in campo infine Belgio e Islanda, 1 quotato 1,35, X a 4,35, 2 invece quotato 8,45. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Giovanni Capuano che con me in studio, Pierluigi Pardo, tempi supplementari per lui. Decine di minuti, Pier. Ci sei? Sì. Allora, abbiamo parlato di Parma con Crespo prima, Sport Mediaset insomma, diffuso notizie, queste. Indiscrezioni che vi sveliamo in esclusiva confermerebbero il fatto che un vero preliminare di vendita ufficiale sarebbe già stato firmato proprio dall'attuale presidente Tommaso Girardi una decina di giorni fa, proprio con l'imprenditore albanese. Un accordo sulla base di 25 milioni di euro per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. In questi 25 milioni c'è ovviamente l'impegno di Taci ad accollarsi le scadenze più imminenti, quelle relative agli stipendi, che ammontano a 13 milioni di euro e che hanno una data limite precisa, il 17 novembre, per evitare penalizzazioni in classifica. Quindi potrebbe arrivare un altro straniero alla guida di un club italiano. Ci stanno colonizzando. Sì, potrebbe arrivare, anche se in realtà potrebbe anche arrivare una smentita, non so se è già arrivata, se arriva. Non risulta, vediamo. Tutto da vedere, tutto estremamente fluido, estremamente liquido. Liquido veramente. È poco liquido il Parma, temo. Liquido il Parma in questo momento. Però è evidente che lì si è rotto qualcosa quest'estate, c'è stato anche quel momento in cui Girardi ha fatto un passo indietro, poi in realtà è rimasto proprietario del Parma, perché oggi vendere un club è praticamente impossibile, un club club di calcio. Però credo che molte delle difficoltà del Parma oggi di Donadoni, al di là degli infortuni, del fatto che la squadra era stata indebolita, nascano anche da quei tre mesi in cui ha governato Pietro Leonardi, ma l'ha fatto soltanto per sbrigare la normale amministrazione. Ordinaria amministrazione. A proposito, pare poco liquida anche la federazione russa, sì. Risulta? Sì. Cappello un episodio di 5 mesi. Qualche problemino ce l'ha avuto, ovviamente parliamo di problemi relativi, visto che qualcosa avrà accumulato negli anni, però comunque rimane il fatto che se c'è un accordo e se ci si appunto mette d'accordo per una cifra, e quella deve essere data. E la situazione, da quello che so, da quello che ho sentito dire da Capello, sta cominciando a diventare abbastanza ridicola, insomma. Dove va? Capello. Non lo so dove va, nel senso che lui qualche tempo fa faceva anche dei discorsi ormai da persona che voleva anche fermarsi. Però, conoscendo poi invece la voglia di vincere, soprattutto poi dopo una delusione, perché questa sarebbe chiaramente una delusione se venisse confermato, insomma, se non ci fossero le possibilità per andare avanti, se non lei diventa così un osservatore di lusso che potrebbe essere ripescato da qualsiasi grande d'Europa alla prima difficoltà, insomma. Sì, comunque... Ci pensa Toir? Non lo so. Con quello, joking. Sì, beh, quello che costa, però sai, poi alla fine di fronte bisogna pure vedere un po' che cosa succede, nel senso che poi se c'è una buona uscita e magari può esserci una sfida che può essere stimolante. Guarda, lo stesso Mancini, io ti dico, ho la sensazione che poi abbia su di sé questa etichetta di allenatore ovviamente costoso, eccetera, ma in realtà, come dicevo l'altro giorno, secondo me è anche disposto eventualmente a fare uno sconto se la proposta lo intriga, quindi poi alla fine, però certo non si può andare a comprare il tartufo bianco anche se ti fanno lo sconto con una società che deve già ricapitalizzare, perché poi sono le notizie che stiamo leggendo dell'Inter, anche i 230 milioni sono quasi finiti, c'è necessità di un nuovo socio, di un aumento di capitale, io ho l'impressione che sull'Inter si continui a perdere di vista quella che è la cornice della situazione, che è molto peggio rispetto al problema Mazzarri, ammesso che esista un problema. Non si può andare al ristorante da 100 euro spendendone 10 euro. Questa l'avevo già sentita. Signor Conte, salatissimo anche la bolletta del telefono di Garcia, anzi che la Roma deve pagare per Garcia, 122.000 euro, perché questo continua ad avere contatti telefonici quando è squalificato con la panchina. E avete, se ne frega, niente altro da fare? Buongiorno a tutti. Sergio Chieti, buongiorno. Altra regola che andrebbe cambiata, eh? Ci sono sport dove hanno il computer in tempo reale, in panchina, con statistiche e tutto. Fanno i time out facendo vedere ai giocatori le statistiche. E nel calcio non si può fare. Detto che se esiste la regola, è ridicolo che la Roma possa infrangerla per 11 volte in un anno e si va di recidiva in recidiva. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Io praticamente volevo parlare dei ragazzi, stavate parlando dei ragazzi che cominciano a fare calcio, un po' seri, tipo Juniores. Io vi dico la verità, io ho un figlio che gioca nell'Annunzio Calcio a Pescara. A volte non ci sono i campi dove allenarsi, in campo, cioè si dividono i campi su due scuole calcio. Perché non ci sono i campi dove allenarsi, insomma, sì. non c'è investimento su questa cosa qui. Non c'è investimento in strutture, in campi. Io chiamo anche spesso volentieri qui, perché sono sempre ascoltato, è un programma che mi piace tanto. Io ho giocato in Argentina, pensate, con José Antonio Chamote nel Rosario Central. Va bene, io per esempio non mi piaceva allenarmi, per quello sono finito dove sono finito, a lavorare come un immortale. Però vi dico la verità, ci sta anche, io la chiamo tra virgolette mafia, anche nelle giovanili, anche se non sei amico, se non c'hai uno sponsor, se non c'hai uno che ti dà una mano, anche se sei bravo non riesci ad andare avanti. Quindi servono le conoscenze, lei dice servono le conoscenze anche da quel punto, anche se si è bravi a giocare a pallone. Io vedo un esempio molto molto semplice. L'amico del mio figlio, classe 97, si chiama il cognome Di Pinto, è entrato nel Pescara l'anno scorso, l'ultima partita contro l'Empoli, quando l'ultima partita contro l'Empoli, a metà del secondo tempo è entrato questo ragazzo qua. Bene, questo ragazzo oggi lo hanno mandato indietro alla primavera. È un bravissimo ragazzo. Ho capito, però bisogna vedere anche. Io mi fido sulla parola, bisogna anche vedere quello che vale. Senti, quanto vale Okaka secondo te invece, Pardo? Perché adesso lo vorrebbero tutti in nazionale. Stavamo facendo i conti con Giovanni, insomma, ha segnato a 25 anni, ha segnato 14 gol in Serie A. Sta facendo un'ottima stagione. Okaka segna poco e ho la sensazione che sarà un attaccante che continuerà a segnare abbastanza poco, però fa un lavoro eccezionale per la squadra e con un determinato tipo di squadra e un determinato tipo di modulo può diventare anche uno che comincia a segnare tanto. Questa è la mia sensazione, insomma, non è un bomber spietato, è un grande faticatore offensivo, ma non è una diminuzione, c'è un giocatore che fa sempre il suo, quindi non lo so quanto vale, potrà valere non so 15 milioni. No, ma non quanto vale, come vale, quanto vale come giocatore, perché adesso come molti lo vorrebbero in nazionale, ma mi sembra che di faticatori offensivi ne abbiamo abbastanza. Ci mancano quelli che la buttano dentro. Esatto. No, sicuramente, però insomma è un giocatore che sta crescendo tanto, che con Mihajlovic secondo me ha messo in piedi una disciplina. Di fallimenti ce n'erano stati parecchi, sembrava un predestinato ai tempi di Roma. E poi però a Roma non è mai esploso, in qualche modo ha anche spiegato lui perché non c'era troppa pressione. E insomma sta crescendo, i fenomeni sono altri, ma sta crescendo bene. Umberto Torino, buongiorno, poi salutiamo per lui. Buongiorno, dica. Grazie per la convocazione. Io volevo ritornare sempre sul discorso della nazionale, della base dei giocatori italiani. Io sono del parere completamente opposto rispetto a molti che vorrebbero una sorta di proibizionismo o una chiusura agli stranieri. Proprio per il discorso che faceva anche Pardo prima sulla nazionale inglese, l'Inghilterra è piena di giocatori stranieri e poi in nazionale fanno quello che fanno. Noi dovremmo cercare di fare come tutti gli altri paesi che invece vanno molto bene e cercare di esportare i nostri giocatori. Io mi ricordo anche fino a poco tempo fa questo calciomercato, c'è stata oddio, abbiamo perso tutti i nostri nuovi giovani talenti. Sono d'accordo, a me piace vedere i giocatori italiani che vanno all'estero, sono tifo Verratti ogni weekend, per esempio Pellè, Donati, Caldirola, tutta questa gente qua che è andata a fare esperienza all'estero. Ma non, anche proprio mi ricordo Caldirola ai tempi della primavera dell'Inter, che andò a giocare in Olanda per un anno. Sì. Ma l'esperienza che ha fatto lì, giocando tutte le domeniche, o ma comunque giocando molto di più in Serie B o in Serie C, non l'avrebbe mai fatto. Ma noi tutti tifiamo per l'esportazione dei nostri piedi, non dei cervelli, ma dei piedi, no? Pierluigi, abbiamo sempre fatto il tifo. Ci piace vedere i nostri che giocano all'estero. Sì, ci piace, c'è sempre anche poi il pippone di retroguardia, però ci lasciamo sfuggire, c'è sempre anche quell'aspetto lì, no? Ma ci sono delle cose incomprensibili, cioè che Immobile per la cifra alla quale è stato preso poteva essere ancora un giocatore da target per il campionato italiano dopo la stagione straordinaria che ha fatto l'anno scorso. Ma torniamo all'intervista di stamattina, a quel passaggio di Bogarelli, ormai è tutto globale, ormai non esiste neanche più la differenza tra Italia, dal punto di vista giuridico non può esistere per quanto riguarda i comunitari, però poi c'è questa cosa antica, un po' romantica, che sono le nazionali, per cui non è che fai come che cos'era la Coppa Europa di atletica leggera, che gareggiavi per continente, cioè non c'è la squadra, non c'è la nazionale dell'Europa. Sono squadra di club che l'acqua che muove il mulino, non c'è niente da fare. No, nazionale, dici tu, è un sistema di normative che sono quelle del diritto internazionale e dove gli europei sono tutti uguali, italiani, francesi o tedeschi che siano. È difficile andare contro queste regole, ed è anche abbastanza antistorico. Poi è ovvio che c'è la nazionale, ma la nazionale, la forza della nazionale tu la costruisci attraverso delle società forti che riescano ad avere degli introiti molto importanti e che abbiano a quel punto la lungimiranza di investire sui settori giovanili. Se non quella forza lì non ce l'hai perché pensi soltanto al presente o a fare trading, come diceva Capuano prima, cioè a cogliere ogni minima opportunità per incassare un minimo di reddito e fare plusvalenze senza investire, allora a quel punto poi figurati quanto potrai investire sui settori giovanili e sui vivai, sono proprio l'ultima cosa, perché è una cosa, è come i famosi discorsi che si fanno spesso sulla scuola, la scuola è chiaramente un tipo di settore che i frutti te li dà 15 anni dopo, se tu hai buoni insegnanti fra 15 anni avrai dei ragazzi fenomenali, se tu hai pessimi insegnanti e pessime scuole fra 15 anni avrai, cioè non è che lo vedi subito il risultato. Insomma, l'autista dell'autobus, se sciopera, è chiaro che l'autobus non passa, no? È ovvio che è un po' diverso. Quindi i vivai sono, da questo punto di vista, chiaramente un investimento a lungo periodo. Certo, certo. O quantomeno a medio periodo. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Ciao. Ciao. Stefano da Milano, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Forse avete appena risposto a quello che volevo chiedere. Io volevo solo porre questo quesito, parlando dell'argomento utilizzo stranieri. Al di là dei bei discorsi di forma e di principio che abbiamo fatto fino adesso, a me quello che stona molto è vedere il merito, e cioè il fatto che in particolar modo quando si guardano squadre di fascia medio-bassa vengono acquistati, impiegati molti giocatori che obiettivamente la differenza non la fanno, e mi sento di dire sono spesso e volentieri anche inferiori a tanti altri giocatori, al di là dei giovani da prendere. Ma sono rivendibili poi, quel discorso che facevamo, sono rivendibili. La mia domanda è questa, non è che al di là del bellissimo discorso di forma che facciamo del calcio eccetera eccetera, alla fine questi sono degli strumenti che alla gestione amministrativa della società rendono dei benefici migliori rispetto a quelli di investire sul crescere i giovani, tutte le belle storie che abbiamo raccontato anche prima col presidente. È la differenza che c'è tra quello chi... è il problema nostro probabilmente. È la differenza che c'è tanto, amico, tra chi ritiene l'Udinese un modello positivo e chi invece io ritengo l'Udinese il miglior modello possibile. L'Udinese fa benissimo i suoi affari dal punto di vista economico, ma non fa proprio il bene del calcio italiano. L'Udinese è esattamente che cosa significa fare trading partendo dallo scouting dei ragazzini per mettere insieme una serie di plusvalenze, di bilanci spettacolari e quindi Pozzo fa non bene, benissimo, fa benissimo dal suo punto di vista, sono sostenitore però non veniteci a raccontare che il modello Udinese è un modello che in qualche modo investe sul calcio italiano, questa secondo me è la differenza. Non investe sul calcio italiano ma probabilmente fa bene così, nel senso che adesso si costruisce lo stadio, ha una gestione secondo me esemplare l'Udinese, secondo me è il modello in cui gestire il calcio adesso, perché al massimo livello professionistico possibile, per le ragioni che diceva anche prima Pardo, non puoi innanzitutto discriminare, quindi la libera circolazione dei lavoratori è sancita dalla legge, grazie al cielo, e quindi ognuno va a giocare dove vuole. Sì, il problema è che noi abbiamo fatto una legge che divide giustamente in maniera più equa i diritti televisivi, e deve essere chiaro che la Serie A costa 1 miliardo grazie agli investimenti di pochi club, altrimenti le televisioni pagherebbero molto meno. Mi chiedo qual è il valore aggiunto che danno gli altri a questo prodotto, se poi legittimamente incassano i soldi e continuano comunque a fare quel tipo di politica economica legata al calcio. Potrebbero vendere lavatrici, sarebbe la stessa cosa. Bruno Romo, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Dica. Senta, io volevo un attimo dire, Conte, quanto avete detto che prende 9 miliardi in 2 anni? Conte prenderà in 2 anni 9 milioni. Milioni e mezzo di euro netti, più un altro mezzo milione se arriverà almeno in finale agli europei. Gli altri 9 milioni e mezzo sono praticamente lo stipendio fisso più un paio di bonus semplici, cioè se lui si qualifica prende un altro milione di euro, valore, e se guadagna 5 posizioni nel ranking FIFA guadagna un altro mezzo milione. Diciamo, prenderà 9 e mezzo in 2 anni netti magari diventeranno 10, magari quello sarebbe il valore aggiunto. Vabbè, diciamo, facciamo una cosa così, diciamo 10, va bene, per fare conto pari, giusto così, tanto non cambia molto. Il che vuol dire 20 per il costo per la federazione, no? Praticamente sì. Il doppio. Allora io dico, ma non è un ridicolo e paranoico una cosa del genere? In un momento del genere in Italia buttare questi soldi dietro a Conte per che cosa? È semplicemente la quotazione di mercato del più. Ma quale business c'è? Ma non ci va più nessuno al calcio. No, c'è un ragionamento più profondo. La Federcalcio rischiava di perdere gran parte dei suoi sponsor che finanziano tutta l'attività della nazionale e anche Conte, altro. No? E quindi serviva un nome forte, serviva qualcosa mediaticamente di grandissimo appeal. Quindi dal punto di vista strettamente economico, non è un'operazione sbagliata ed è un'operazione a prezzi di mercato. Pagano gli sponsor, no? In gran parte pagano gli sponsor. No? Così. Sì, in gran parte paga la Puma. Quindi, che vogliamo dire? Cioè, Conte ha un valore di mercato come ciascuno di noi, il suo è molto elevato. Torniamo al discorso d'inizio: ci si attende da Conte che adesso gli dia il suo valore aggiunto. Ad esempio, stare a vedere Conte che si lamenta per il numero di stranieri che giocano, gli italiani che sono pochi, come un Prandelli qualsiasi, ecco, secondo me è arrivato il momento che lui faccia quel qualcosa in più. Poi le analisi si facciano, la Federcalcio prende provvedimenti se li ritiene utili, però l'allenatore della nazionale, che è un top manager perché così si è fatto pagare, deve fare l'allenatore. Davide Roma, Bologna anzi, non Roma. Davide, buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire sulle giovanili. Io mi occupo, sono un educatore di formazione, ma mi occupo di diversi ragazzi delle giovanili da diverso tempo, di diverse squadre. Ho notato questa cosa, che di fatto sono trasformati come merce dalle società, che all'ultimo minuto d'estate magari li scambiano per delle opportunità. E questi poveri ragazzi di 14, 15, 16 anni inseguono un sogno che in qualche modo gli mettono in testa, dove gli dicono che sono sicuramente in grado di sfondare, e lasciano studi, lasciano tutto. Io in questi anni ho visto diversi ragazzi assolutamente menefreghisti del futuro, se non quello calcistico, dove non seguono nessuno. Non sono, comunque, Davide, queste non sono storie nuove, poi possiamo fare un bel po' di demagogie, valore della famiglia, ma demagogia, cose reali, l'importanza famiglia, le famiglie dovrebbero indirizzare i ragazzi, possiamo dire tutte queste cose qui. Però è anche vero che insomma nello sport professionistico c'è una percentuale di rischio e c'è anche una tendenza a dover girare, a dover rischiare. È una libera scelta, poi uno la fa sperando di essere ben consigliato. Che vuol dire? Dico che c'è la borsa. Poi torniamo. 80024 0024 è un numero verde. Lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere, tutto. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. Convocati. Al primo posto c'è Walter Mazzarri, lui è l'elenco di scuse. Queste sono quelle dopo il pari di Coppa con il Saint-Étienne. Noi le abbiamo contate. Ormai si era rimediata, invece di rinviarla gli abbiamo messo a piede un altro, il campo è scivoloso, eravamo stanchi, quando sei stanco perdi lucidità. È normale che qualche errore si possa fare quando la partita si mette in un certo modo e dove arrivano un po' da tutte le parti, per i difensori diventa difficile. E poi dico la verità, avete visto, si è finito con un ragazzo della primavera, eravamo stanchi, siamo calati da un punto di vista proprio fisico in tanti. 10 in 20 secondi. Sì, no, ma queste sarebbero scuse, cioè questa è la lettura di una partita. Ho l'impressione che il buon Mazzarri oramai potrebbe venire qui e dire vuoi un caffè? Ma comunque non gli sembrerà vero di giocare il derby, cioè di giocare a San Siro, la prossima partita, gioca in casa al Milan, di giocare un derby senza fischiato. Senza laser in faccia. E senza essere fischiato, sai perché? L'hanno spiegato due esponenti del tifo organizzato interista. La curva cosa pensa? Ma il pensiero della curva è semplice. Secondo me deve rimanere, ma perché noi abbiamo sposato il progetto di una società che finalmente ha fatto sua la progettualità. Per cui ha scelto Mazzarri e noi sosteniamo la società in questo momento, che finalmente difende l'allenatore, per cui ci va bene così. A Mazzarri gli chiediamo come sempre il massimo impegno e niente, c'è poco da cambiare. Lui è il tecnico, lui li vede tutti i giorni i giocatori. Siccome Mazzarri è l'allenatore in questo momento dell'Inter, noi se fosse Pinco Pallo l'allenatore dell'Inter e i risultati fossero i medesimi, sosterremmo anche lui, perché la gente iniziasse a fare il tifo. Già adesso c'è il derby, forse è un'occasione positiva perché giochiamo in trasferta e quindi l'unico settore aperto è la curva e possono andare anche altri interisti di altri settori, ma magari tutti i fischiatori se ne stanno a casa perché sanno che la curva va lì per sostenere 90 minuti la partita, per cui poi uno ha il diritto di fischiare, ma che lo faccia al 90esimo. Tra l'altro al derby arriva un allenatore che ha fatto 3 punti nelle ultime 4 partite e uno che ha fatto 7 punti nelle ultime 4 partite. Mazzarri non è quello che ne ha fatti 3. Enrico Currò, inviato di Repubblica. Io lo dico perché poi tu leggi i giornali, ascolti la gente nel bar e ti viene l'idea che sia il contrario, no? Enrico. Enrico, buongiorno, ciao. Buongiorno, scusate ma si sono sovrapposte le voci, non sono riuscito a sentire. No, dicevamo di Mazzarri, Fischi, il derby, eccetera, eccetera, e Capuano faceva giustamente notare che ha fatto 7 punti nelle ultime 4 partite, dall'altra parte ne ha fatti 3 nelle ultime 4 e quello fischiato non sarà Inzaghi. Come sta la nazionale, Enrico? La nazionale come sta lo capiremo soltanto a San Siro, guarda caso. È lo stadio dove nelle prossime 2 settimane si capiranno molte cose. La prima sarà appunto sulla nazionale. Per il momento è impossibile dirlo perché in teoria non sta bene, perché l'ha detto anche Conte, ha detto ci mancano un sacco di giocatori, i giocatori selezionabili sono sempre meno, però poi in realtà può essere anche un modo per non tanto per mettere le mani avanti quanto per dimostrare poi, se le cose andassero bene, che lui è stato particolarmente bravo. Ma queste porte chiuse per gli allenamenti è qualcosa di diverso rispetto al passato? No, tutto normale? No, assolutamente. Si tratta soltanto di una serie di orari che magari sono diversi rispetto a prima, cioè prima magari l'allenamento aperto era aperto la mattina oppure il pomeriggio, insomma ci sono diciamo delle situazioni logistiche che sono un po' cambiate. Questo ovviamente non toglie che Conte sia abbastanza un maniaco della riservatezza, diciamo così, se non vogliamo dire della segretezza, e che quindi faccia il possibile per non fare vedere gli allenamenti. Dopodiché, siccome ci siamo un po' specializzati negli anni a Coverciano, i buchi per vedere si trovano e quindi più o meno si riesce a sapere che cosa prova, e lui per primo sa che poi certi segreti sono abbastanza segreti di Pulcinella. C'è sempre un albero a disposizione. C'è sempre un albero a disposizione. Dura la vita dell'inviato, caro Enrico Currò. Senti, il mio compagno di banco vede Balotelli in fondo alla panchina contro la Croazia. Tu? Per il momento direi proprio di sì, perché sembra quasi che gli stia facendo scontare una sorta di penitenza barra novizia, matricola, cioè come se lui dovesse ripartire da capo, e di fatto poi anche abbastanza così. Lui ha fatto capire Conte che si tratta non di una questione disciplinare, ma di una questione tattica, cioè molto semplicemente detto papale, anche se lui non l'ha detto, però lo ha fatto abbastanza appunto intendere. Balotelli è un giocatore anarchico, per i giocatori anarchici non c'è spazio nel modulo di Conte, che prevede l'anarchia possibile soltanto per gli eventuali Messi. Come Messi in questo momento nell'Italia non ce ne sono, anche Balotelli, che forse per qualche tempo si è creduto o al quale abbiamo fatto credere che fosse una specie di Messi italiano, deve assoggettarsi alla regola prima di Conte, che è quella che si deve prima di tutto dimostrare di potersi incastrare nella tattica di Conte, che è una tattica per gli attaccanti estremamente semplice, nel senso che sono due, tutte e due punte centrali. Quando una si getta nello spazio, l'altra deve correre incontro alla palla per fargli la sponda e viceversa. In genere l'attaccante più forte fisicamente è quello che va incontro al pallone, quello che si getta nello spazio è quello più leggero o più scattista, quindi diciamo così le coppie fino a questo momento sono state, tra i 5 attaccanti che ci sono, la coppia presunta titolare Zaza centravanti Immobile in cursore, seconda punta, se così vogliamo dire, Pellè centravanti, Giovinco seconda punta e Balotelli che è il quinto. Però è chiaro che se Balotelli impara i movimenti, non credo da qui alla Croazia, ma certamente nei prossimi mesi, può scalare le gerarchie. Tutto dipende da lui. Diciamo che è probabile che magari giochi martedì a Genova con l'Albania, che avrebbe anche mille significati. Non deve giocare nemmeno un minuto contro la Croazia, perché l'Italia ha chiesto la deroga per poter organizzare l'amichevole a meno di 3 giorni dalla partita ufficiale, e il patto è che non giochino nemmeno un minuto chi ha messo piede in campo contro la Croazia. Esatto. Ma è per questo motivo che Destro non fa parte di questa nazionale? Cioè anche lui è un giocatore che non si adatta? L'abbiamo perso? Me, arriverà? No, io non credo che sia stato perso. Credo semplicemente che Conte si aspettasse dai giovani attaccanti italiani, tra i quali innegabilmente c'è anche Destro, un rendimento migliore di quello che hanno fornito, e conseguenza, dovendo scegliere tra il centravanti della Roma che gioca e non gioca e il centravanti del Liverpool che gioca maluccio ma tutto sommato gioca, ha preferito convocare il centravanti del Liverpool, almeno questa è la spiegazione che ha dato, fermo restando che molto probabilmente se Insigne non si fosse infortunato al posto di Balotelli, direi ci sarebbe stato Insigne. Ma nel ballo entrerà anche Osvaldo prima o poi? Sì, Osvaldo c'era. Osvaldo è un attaccante che piace molto ai commissari tecnici e agli allenatori, salvo poi vederli a volte ricredersi quando Osvaldo alterna delle partite ottime alle partite in cui latita, nessuno l'ha visto in campo. In cui latita. Un'ultima cosa, Enrico, è un'opinione questa, seguire la nazionale da quanti anni? Quanto tempo? Dal 98, purtroppo. Dal 98, quindi da qualche annetto. A Giovanni non piace questa eccessiva apertura di Conte alle convocazioni, 38 giocatori convocati fin qui. Io sono dell'idea che insomma sia legittimo, no? Devi vederli, conoscere, poi soprattutto per un allenatore che come Conte, che insiste molto sul fatto di conoscere personalmente i giocatori, valutarli come persone, cioè, queste cose ce le ha dette mille volte. Secondo te a te piace, è legittimo questa, sono legittime queste porte girevoli cui lo stesso Conte ha fatto riferimento? Sì, sono legittime, sì, soprattutto nella fase iniziale dell'impostazione di un lavoro. Faccio però notare che alla fine, se togliamo Insigne, Abate e Barzagli, che sono infortunati, e Cassano, che pare non rientrare assolutamente nei pensieri di Conte, per il resto Conte ha portato tutti gli uomini dei mondiali, le altre convocazioni che erano al mondiale, che fa capire che al di là delle 38 convocazioni, evidentemente il materiale al quale ha attinto Prandelli è il materiale al quale sta attingendo anche Conte, per il semplice fatto che i giocatori convocabili purtroppo sono numericamente pochissimi e evidentemente c'è poi poco da girarci intorno. Questi sono e questi bisogna prendere. Grazie Enrico, buon lavoro. A voi, ciao. Grazie Enrico Curro, inviato di Repubblica. Capito? No, ma io sono... No, come si fa a non essere d'accordo con Enrico Curro? Ripeto, lo dico subito, non bastano due o tre minuti in A o magari due gol a partita per essere chiamati. La nazionale è un premio, qualcosa da conquistare, da soffrire, qualcosa che crei un'ansia e ti faccia star male se poi non arriva. Ah. Antonio Conte, 19 agosto 2014. A me fa così sorridere quando c'è scarsa coerenza tra quello che tu dici, il manifesto con cui ti presenti, e poi gli atti che sono legittimi, ma è un po' come Prandelli che ci aveva raccontato che aveva fatto il codice etico, salvo poi fare un po' quello che voleva. Conte lo fa, vero? Conte ha detto giustamente che decide lui. Ha suo insindacabile giudizio, quindi cioè, fa benissimo. Tirato una, e secondo me ha fatto benissimo testa, anche a richiamare Balotelli, perché noi l'avevamo detto: è impensabile che Balotelli non torni a far parte di questo gruppo e che Conte lo escluda a prescindere. Lui ha scelto questo momento, secondo me, anche perché in questo momento Balotelli ha poco da chiedere, poco da pretendere. No, ma in questo arriva io capisco con le orecchie basse e lui prova a inserirlo in un gruppo e non è semplicissimo. Mi fa più sorridere l'altro discorso. Tutti convocati. Io ho avuto la possibilità ieri di allenarmi con la squadra e con mister Conte. Si vede che lui è molto preparato e lavora seriamente, come hai detto tu, anche simile al nostro mister Mihajlovic. Sono un po' simili, hanno due caratteri molto forti e questo secondo me ci vuole sia qui e sia da noi nel gruppo, nella Samp. C'è molta più pressione per noi, il fatto di giocare una partita e far male, forse a volte veniamo messi da parte, oppure come il fatto di poter far bene una partita e poi di nuovo non trovare quella continuità che magari forse un giovane all'estero ha. questo penso sia la differenza più importante. Vogliamo e stiamo cercando di far giocare più giovani possibile, però non vedo questo grande cambiamento e il dato di fatto è che ci sono più stranieri che italiani e questa per noi che giochiamo e che noi siamo giovani comunque dispiace. Allora io che ho fatto sia il giovanile lì in Germania e qualche anno qui in Italia, sicuramente lì magari quando dei giovani vengono chiamati per una possibilità magari danno più tempo di esprimersi al meglio, magari qui in Italia forse vengono bruciati subito, magari hanno più pressioni e quindi magari succede questo. E poi naturalmente anche io che ho fatto 3 anni nei giovanili al Bayern, lì anche la struttura e tutto aiuta molto secondo me. Poi vabbè, stiamo parlando del Bayern che è uno dei club più forti al mondo, quindi penso anche le strutture così, che anche nella Serie B o Serie C che ci sono in Germania, che aiutano molto per la crescita dei giovani. Questi i due ragazzini della nazionale, Soriano e Bertolacci. Posso dire all'amico Nicola, chiocciola solo secco, no, insomma, che mi segue su Twitter e mi scrive fatene una ragione di quello che ha detto Conte. Ma io me ne faccio una ragione, semplicemente notavo che c'era una discrepanza. Ma sì, ma in questo caso scriptamanent, no? Non sono parole che potranno essere cancellate e le ricorderemo tutte le volte che sarà necessario. Ma il Giorgio Piantanida che lavora a Radio 24 è l'ex discesista. Che bello sarebbe. Ciao Giovanni Franco, oggi titolare. Allora, innanzitutto non è Giorgio ma è Franco, credo sia bravo con lo snowboard, ma non è l'ex discesista e non è neanche un parente. Va bene Giovanni? Adriano Trieste, buongiorno. 14:30, si parte tra poco, allora. Inizia la sfida, ma è solo un gioco. Me la beggo tutti i giorni, cioè non c'è via d'uscita, per un gioco non antico, c'è scampo, moderni non ce la faccio più. Tributi Adriano, di coi, Adriano, di Adriano, faccio come Rocky. Eccolo. Vittorio giovanile. Sì. Per quanto riguarda la primavera dell'Udinese, mi dica quanti giovani italiani che giocano nella primavera? Pochissimi. Quindi? Perché voi avete detto che l'Udinese lavora molto bene con i giovani. No, l'ha detto Carlo Genta. Ma lavora bene con i giovani. Lavora bene con i giovani, il problema è che non sono quelli italiani. L'Udinese fa trading, cioè va in giro, ha degli osservatori bravissimi, li prende in tutto il mondo e li tratta come titoli di Stato, cioè li rivende appena fa plusvalenza. Li fa giocare, li cresce, li fa giocare e lavora splendidamente sul settore giovanile. Qual è il problema? Che non sono italiani? Che non sono italiani, questo è il problema. Ripeto Adriano, l'Udinese penso che non abbia nessuna preclusione. No, ma Adriano ha perfettamente ragione. Penso che non abbia preclusione nel prendere giocatori. Non è un problema di preclusione. Non ha preclusione. È un problema di impostazione economica di un club. Sì. L'Udinese fa benissimo perché ci guadagna e quindi noi non siamo qui a dire che l'Udinese fa male. L'Udinese credo non sia un modello di calcio che porta dei vantaggi al sistema Italia. Che porta dei vantaggi alla nazionale, vuoi dire? No, ma in generale al sistema Italia, alla nazionale non di sicuro. Sai, io sono dell'idea che l'Udinese, massimo livello professionistico possibile, prende giocatori in giro per il mondo, sono bravissimi a reclutarlo, è un lavoro, una professione, lo fa benissimo, li fa giocare, li valorizza e se poi li vende, si mantiene e magari arriva in Champions League. Maurizio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono tifoso del Milan. Allora, di Conte, a me è sempre piaciuto Conte, mi piace che quando dice comando io di qua e di là, ecco, sono rimasto anch'io sbalordito da quando ha convocato Altobelli, perché ha un controsenso di quello che ha detto. Vabbè, comunque al di là di quello, poi volevo parlare del settore giovanile di qua e di là. Vabbè, ormai è tutto un miscuglio, cioè io non sto io a guardare se uno è italiano o no, se uno è forte gioca, di giocare. L'Udinese fa benissimo. Allora il problema è trovare come prima cosa io i soldi secondo me vengono dopo. Prima cosa devi avere uno che capisce il pallone veramente, basta. Secondo me, perché allora separatici va a scegliere 11 giocatori, sono tifoso del Milan, 11 giocatori in giro giovanissimi, ne porterà a casa 10 forti. Galliani non ne porta a casa neanche uno, secondo me. Galliani faceva un altro mestiere. Sì, faceva un altro mestiere. Che decide. Ecco, poi un'altra cosa che su Berlusconi. Ogni tanto, allora, ha detto che Balotelli non lo voleva lui, ma ci dica veramente chi ha preso gli altri artisti allora? Chi ha preso? Gli altri acquisti, no? Torres. Ma io credo che. Io credo che non si muova foglia o foglio di denaro che Berlusconi non voglia, no? Sì, per certi tipi di acquisti poi, sì, per altri certamente ci sono però, dei margini però, di operatività per di Galliani. Che valgono quattrini, insomma, io cioè, Berlusconi ci vuole il consenso del proprietario. Però io capisco l'amico milanista, il Milan in realtà ha scelto da anni di inseguire i parametri zero e non è vero che è sempre andata male. Noi stiamo vedendo ad esempio Onda è un giocatore arrivato a zero al Milan. E si fa fatica, credo, a definirlo un cattivo affare, e ce ne sono tanti altri, anche lo stesso Alex, se vogliamo restare a quelli che in questo momento sono titolari. Montolivo è un giocatore arrivato così, è la politica diametralmente opposta rispetto a quella che seguiva il Milan quando prendeva Berlusconi dava dei budget nettamente differenti da quelli che oggi ha Galliani. Galliani ha scelto di fare così, secondo me ha fatto degli errori, ha fatto anche delle buone, delle ottime scelte, e i nomi sono lì. Del resto basta scorrere l'elenco degli 11 titolari del Milan, più o meno, di Inzaghi, sono praticamente tutti parametri zero. Non tutti sono deludenti. Impatto zero. Impatto zero. Il caso del Milan e quello dell'Inter. Va bene, aggiorniamo la seduta, Giovanni Capuano. Naturalmente vieni a trovare quando vuoi e la domenica la cloche è tua. Franco Piantanida, non Giorgio Piantanida, autore di questo programma. Roberto Scaltritti in regia. Saluto anche il professor Marco Tulli in redazione. Grazie a tutti, ciao, domani. Ciao. Ma che buongiorno, allegri. Sono 150 metri. Coraggio, piccola. Sei mia amica o sei mia nemica? Va e colpisci. Oh. Bel colpo. Complimenti, signor Marre. Bel drive. Sì, lo so. Mike, devo chiederti una cosa. L'NBA deve guardare in faccia la realtà. Il tracollo di quei giocatori è una cosa seria. Ne occorreranno di nuovi, gente di talento. Gente capace, rimasta fino adesso esclusa dalla carriera professionistica. Tu che dici, ho una chance? Dai, mi ci vedi? No. Un minimo sì. Senti, è un gioco virile. Tu non lo puoi fare. E se ce la mettessi tutta? Zitti, mi deconcentrate. È perché sono bianco, vero? No, Larry è bianco, che c'entra? Larry non è bianco. Larry è scolorito. Convocati.